Vai bello! Perché la folla strippa se tiriamo sul bordello. Se facciamo noi il macello. Se non ti va. Vai bello! Tornatene a casa. Non ci sarà polemico o risposta. La spaghetti funk e basta. Gioienzo della Spaghetti Funk si introduce con il vai bello. SF la mia custile, faccio quel cazzo che voglio. Resta composto al tuo posto, perché nessuno vuole un tuo cazzo di spazio. Per 15 anni mi son fatto il culo nell'hip hop e nessuno mi ha mai regalato un cazzo. Quindi porta rispetto, perché quello che smazzo lo pesco dal mio cazzo di pozzo. Dimensione massiccia, vero hip hop, vai bello, mi ripeto, e non rompermi più cazzo. Vai bello, se coi fratelli miei tiri sul bordello, in pista tanto macello quando creo scompiglio. Unite le province con pioltello, tra famiglie con tanto d'anello, premio numero uno sul più alto piedistallo. Per me sballa la bella per la quale bollo, se non ti gusta scolla. Vai bello, ciao bello, non ho paura delle tue minacce, suonano alle mie orecchie come immagino le loro facce, di quei bambini gelosi che dietro le mie spalle mi fanno linguacce. Gli do fastidio come un lavandino che è imperterrito, continuo a perder gocce. Sono convinto che in questo mondo, in ogni posto, c'è sempre chi vuol star con te, chi dalla parte opposta. E mentre chi è con te si applica per comprenderti e ti gratifica, la parte scettica ti intossica con un mare di critica. Per stenderti al tappeto fammi tanto di cappello bello, perché ho capito come scordarti subito, è automatico. Puoi chiederlo alla tua donna che corre da noi se vai via un attimo. Vuoi assillarci però riesci a farci solo divertire, con giudizi che entra nella testa già pronti ad uscire. Vuoi contraddire quanto vuoi sia me che un mio fratello, a noi per ricambiarti basta dirti vai bello. Perché la folla strippa se tiriamo sul bordello. Se facciamo noi il macello. Se non ti va, vai bello. Tornatene a casa, non ci sarà polemico risposta. Ma spaghetti fa anche basta. Vai bello. Perché la folla strippa se tiriamo sul bordello. Se facciamo noi il macello. Basta. Il mio hip è zero pop ma strettamente hop, mica trip tipo Tricky. Cerco meglio Rinox, sono la versione Tamara di Mickey. C'è più stile in questa crew che a Milano smoke, tipo è sul Vogue. Il nostro show ha visto più città che mostri di Landon. Io sono il fondatore maledetto più di James Dean. Gioventù bruciata ma se sono in serata più comico di Mr. Bean. Partito dalla fanzine, ora in magazzine, presto star dei film. Raduno il funky dream team e team Salabim. Mago campione oppure la mazurka ed esce il giusto suono. Se non ti va vai bello, non tengo tempo, ne tengo il punto di riferimento. Per la penisola, Sicilia e Sardegna, le signorite in Spagna, le Fräulein in Germania. Maestro di cerimonia, in aerial play, I can fly come MJ. Dalla hi-fi, il funky shaker, per tipe super stripper, ripper. Completo il poker, questo è l'impasto. Così su un foglio verso inchiostro che a te soffia come vento fresco. Quarto escaletta, se te in condotta, entro in combutta, per tipe lista, è col sex symbol, zero jungle, hip hop anche nel jingle, jingle. Messa fissa in testa, SF, basta in pista, spacca dalla cricca. Questo è l'MC con la canotta, in pole position, nella jam session. Se non ti va, vai bello. Perché la folla strippa se tiriamo sul bordello. Se facciamo noi il macello. Se non ti va, vai bello. Tornatene a casa, non ci sarà polemico risposta. Ma spaghetti fa anche basta. Vai bello. Perché la folla strippa se tiriamo sul bordello. Se facciamo noi il macello. Se non ti va, vai bello. Tornatene a casa, non ci sarà polemico risposta. Ma spaghetti fa anche basta. Yeah.